canale 10, c'è nessuno? CQ canale 10. Natalie, ci sei? Vabbè, va lei. Ah, sì, basso. Segnale, basso con picchi positivi alti. Dove sei, macchina? Ah, sei liscio? No, io già ti sento lo stesso, non c'è nessun problema. Sei quasi 9 con picchi positivi. Sono abituato a vedere il segnale più alto, capito? Ciao. E falle un interruttore, che cosa vuoi ti dire? Un termostato, fai qualcosa. E gli amplificatori sono così, ci hanno sempre la ventola diretta perché hanno bisogno di raffreddare la nuvica, che altrimenti succede un patatrac. Ciao già, buonasera, avanti. Buonasera anche a Valerio, buonasera a tutti. Dai, stavo guardando un filmato su Facebook e non era accorto che eravamo a entrare. Vabbè, storia. E beh, allora che si dice? Io dico la verità, mi sono fatto un bel sonnellino. E tu solo, perché io? Adesso piace sonnellino pomeridiano, poi chi si alza presto come noi. Io veramente ho chiamato anche poco fa, però non mi ha risposto nessuno, allora sono rimasto in ascolto. Poi ho sentito Valerio e allora sono entrato. Io lo sento bassino stasera. Liscio. No, qua già arriva quasi 9. Però se aumenta arriva segnale locale. Avanti Valerio, a Gianni già lo senti, non c'è problema. A boccia, liscio è. Adesso no. Ehi Avani, dai, mi è sembrato di aver sentito la rotta pignara. Certamente, eccomi qua. Era acceso, ho sentito voce adesso. L'ho acceso da pochi istanti, pensa, come acceso io siete entrati voi. Buonasera a tutti. Ciao Marco, ciao, mi è sentito anche a te, dai. Valerio, meglio mi senti adesso? Sì, ciao Valerio. Sì, un segnale medio, né liscio né attaccato, sei a mezza razione. Oh, perché sei arrivato anche più forte di così, ben più forte. Controllate il refegain. No, il refegain è tutta la manetta. Certe volte Valerio mi è arrivato 9 di segnale quando era attaccato, 9 proprio, modulati 9,5. Quindi oggi l'ho visto leggermente meno alto di segnale, ma a voglia ci arriva, anche da lì ci arriva, c'è per questo. Bene, così stavate riposando, beati voi, no, io ero un po', diciamo, mal di denti, ho scoperto che uno dei molari si è scoperchiata un'otturazione, quindi mamma mia, sento quel dolce il freddo. Oh. Curati. No, Valerio, qua liscio è 9, quando attacca è quasi 9 più 20, fate il conto. Con tutte le radio, non è che una è starata e l'altra è tarata, con tutte le radio qua mi arriva 9 più 20, anche col 440, anche col Galaxy mi sta arrivando 9 più 20. Avanti già. Ma il Galaxy è perfetto segnale, se funzionava lo smitter dai segnali giusti. No, ci arriva bene, quando si arrangia arriva benissimo, già si fa sentire Valerio. Ma questa pizzata, quando è che la facciamo? Quando ho soldi, appena inizia il mese. Allora, ma metti da parte, perché io lo so, come ti entrano ti volano a te. C'è sempre preventivo qualche cosa da comprare. Le lampadine per la macchina H4, ce n'erano anche poche da Lidl, infatti ne ho imboscato un pacco sotto una marea di cuscini grandi, così lunedì se vado probabile che lo trovo, perché se no se le prendono tutte, capito? Adesso vado io, me li prendo e me ne metto la 600. Disgraziato, devo stare zitto. Già lo so dove sono i cuscini, non ti preoccupare. Mi hai visto quelle guardie giurate che hanno messo, no? Stanno lì sempre a guardare dove metti le mani. Oggi una signora stava prendendo un pacco, una scatola, no? Per vedere com'era. Signora, non si aprono le scatole. A rompere le palle li hanno messi. perché ogni tanto anch'io 4-4, se metti che ti voglia misurare una giacca, no? Che taglia 52, 50, ma sempre può essere una 50 stretta, una 50 larga, una 50 giusta. Cioè io dovrei provare una giacca, c'erano delle belle giacche tipo trekking, no? E lì adesso non te le fanno provare, perché cominciano a dire le confezioni non si aprono. E vabbè, peraltro uno è quello che mi aveva chiesto i portatili per i cacciatori, che dice che lui è, anzi no, sai cosa mi aveva detto? Non che il cacciatore può usare un radio, siccome la guardia giurata dice, oh, io sono guardia giurata, posso usare o qualsiasi tipo di radio, capito? Secondo lo capo detto. Le usi lui, e poi ci faccia vedere in giro da me, verrà sentito tra i betti. Vai Palè. Ehi, anche oggi bella giornata, dai, sì, sono andato alla Lido, ho visto un po', di offerte, un sacco di roba utile comunque. Avevano, per chi ne ha necessità, il quello che si mette sul dito misura l'ossigenazione al sangue, e ti dà anche i battiti. Capito? E poi sono fatti in Germania, è roba fatta bene, non è roba nemmeno cinese. Si ha anche gli alimenti, che ne so, quando compri roba, cibo orientale, mica è fatto in Cina, ma tutto in Germania è fatto. E lì stanno attenti alle cose. Quindi è roba buona, là c'è anche il misuratore di pressione da braccio, che è uguale al mio, è perfetto, l'ho confrontato con quello Omron e segna giusto. Guarda, un saccaccio di roba, no? Mi sono perso i pantaloni a trekking e la giacca, purtroppo. Avrei voluto avere una bella giacchetta di quelle impermeabili, insomma, tecnologiche come quelle di adesso. Vabbè, vai, te la abili, te la ribigliamo, te la rifà. KK, non sei uscito già? No, sono rientrato alle 2:30 passate, perché mi sono fatto la spesa alle 2, quando sono uscito sono fatto la spesa, qui sono andato a casa per mangiare il tutto, portare giù Tyson, ma poi sono risalito a casa e mi sono coricato la vita e mi sono addormentato perché ero stanco. E io lo stesso sono andato a casa alle 2, un po' più prima di te, sono uscito alle 25, era l'1:25, le 2 ero già a casa. Non ho manco pranzato la verità, non ne avevo voglia, perché stamattina abbiamo stuzzicchiato lì a Trinità qualche cosetta, qui non ho mangiato. Sono coricato anch'io un'oretta, un paio d'ore. E mo siamo qua, già va bene, già va bene. Marco, sempre all'idola a comprare. Ah, voi non vai mai di nacca. No, ma solo quando serve una cosettina così. Invece quando ci saranno le batterie, come ti avevo già detto ieri, no? Le ricaricabili, no? Devo pigliare sia stilo ricaricabile sia a mini stilo. Così rinnovo il parco batterie dei PMR, i veri PMR, quelli omologati. Perché le batterie originali sono mezze andate, durano poco. Così mi piacerebbe passartelo uno, poi te l'ho detto, ma perché noi dobbiamo stare in 27 altre merdi. No, mi interessa a me, non ne frega niente Marco. Se voglio salutare qualcuno lo posso salutare, non ce n'è problema, ma siccome gente a salutare non ce n'è. A meno che, vi ripeto, non si faccia un canale nostro di quelli che trasmettono sul 10, allora posso attivare anche l'omologato e usarlo quando necessita, capito? Ma è sempre acceso, io ascolto tutto, non ce n'è problema. Però con quello amatoriale, quindi non mi va di entrare con quello, anche perché lì non c'entro, quindi non mi interessa. Volete voi, decidete voi. Quando fate qualcosa fatemelo sapere. Cos'hai detto già? Usiamo la 27 che c'è, frega il PMR. Io guarda, se vuoi che ti dica una cosa, io la vedo una frequenza inutile. Quando abbiamo la 27 che trasmette bene tutte le parti, sono cazzo in Vadirlanda, in Chiria, a avere casine e cose. No, io entravo ben poco, solo per salutare, basta, non sono mai entrato molto. Poi cosa ti volevo dire? Che addirittura Tamarco, le batterie ricaricabili a me non piacciono, non durano niente, tutto sono. Se mettevo la portatile e parlavo con voi, 5 minuti ero già scarichi, non servono a niente. Io c'ho i caricatori, c'è tutto quanto per mettere a caricare, ma non mi piacciono. Purtroppo già dipende molto dalla marca. Quelle di Lidl sono abbastanza buone e ti dirò che nei portatili BMR sono sempre andate bene. Potrei già usarle quelle che ho, però volevo prenderle proprio nuove apposta per quello. Invece una volta ho preso quelle della Sanda, quelle col dito, col pollicione, no? Che sono di un color giallino, uno schifo Gianni, uno schifo. Dopo poco scariche, no? Non caricavano, uno schifo. Devo sapere provarne tanti tipi e per esempio l'energizer ricaricabile, sai quanti problemi hanno dato? Si scaricavano subito oppure a un certo punto si bruciavano, non si caricavano più. Lo stesso è una porcheria. Quelle di Lidl ti dirò che vanno bene, sia a mini stilo che stilo, e sia quelle da 9. Poi sai cos'è, il baracchino poi assorbe molto, non è 500 mW, il baracchino ci avrà 3-4 watt. E ciuccio bene, ciuccerà 2 o 3 ampere in trasmissione, beh fai 2 dai, è quello che hai tu. E le scarica anche in fretta. Va bene, dai. Dai, facciamo girare. Natalino c'è l'ascolto, Natalino ci sei anche tu? Natalino è ancora nel mondo dei sogni. Ehi, vabbè, sono quasi le 6 meno 5, no. Ho voglia di riposare, magari sto facendo roba in casa. Opla! Poi, vabbè Claudio, già lo sai, no? Nel caso che ci fanno prove, non ci facciamo un canale nostro, ci mancherebbe. Canale io, tu e giusto per, ma non c'è bisogno. Io ero invece disperato già perché sul sito 409 UV3 non ce n'erano più. Io che ne avrei voluto tenere uno così, perché è piccolino di scorta, no? Invece ho guardato e sono ricomparsi UV3R Mark II, poi c'è anche l'UV3R Plus, ma il Plus è più grande e quindi essendo più grande si vanifica la miniaturizzazione. C'è l'UV3R Mark II, nero ovviamente, molto carino, molto carino. Me ne vorrei accapparare uno prima che spariscano del tutto, e anche qualche batteria di riserva. Sempre con parete, quindi di lui, Adesso compro per lo scambio e finito. Oh, ma qua fa il gol, C'è fa il gol, No, c'è cuocuoma, Ehi, cuocuoma c'è, però non risponde, deve essere nascolto. Beh, sono io cuocuomane. Beh, cuocuomane è Natalino, però non risponde. Oh, io sento... Senta, portate un attimo, sotto dite qualcuno. A me stai dicendo? Anche Claudio, no Claudio, metti portate un attimo. E cosa vi sentite, sarà la televisione? No Claudio, sento praticamente una... francese, bene bene, quella tua portante. Non ti copre, però si sente benissimo. Io qua non sento niente. Non sento niente, ma sto uscendo bene, sì. Arrivi finalmente bene. Che hai la portante tu già? Sarà roba la chiumera, a te siete poco, non credo siete benissimo. Anche con Marco, guarda, pensavo fosse Splatter. Cosa senti Luca? No, guarda tipo a parlare sotto. Guarda se lo fa anche a te. Te lo portate, vai. Ho capito cosa intendi. Allora, su qualcuno, certe sere, su qualcuno io sentivo come delle radio AM, sai quelle in HF, le radio AM che arrivano a tutto il mondo. Bacio, ma si sentiva. Sarà qualche rientro, perché sai, quelli usano kilowatt e kilowatt, un qualche rientro, l'ho fatto anche a me in ricezione. No, va bene, no, perché pensavo fosse sblatta da qualche parte, però niente, ho fatto un giro di canali, ma niente, sentivo questa vocettina di questa voce di questa ragazza, boh, francese, cos'è? Niente, ma sto facendo bene, sì, mi ho sistemato il microfono stamattina. Benissimo, benissimo, stai uscendo. Alla grande, senza nessun problema. Vabbè, vabbè Gianni. Prendi il telefono. Prendi il telefono vicino. Marco lì, riprendi che devo mangiare a Filippo, un secondo, arrivo subito. Via. E beh Luca, mamma mia. Lu, ma tu te l'hai ripreso poi il coso ad aria calda, la stazione ad aria calda, saldante? Sì, bello già, Dove l'hai fatto? Bianche. No, dove l'hai fatto? Nel braccio? Eia. Bello, cavolo, molto? 2,50. E alla fine questo è un ritratto, aspetta. Cazzarola, bello, perfetto, Bello. Bello veramente, bravo tanto attore, Nel muso ci ha fatto anche i puntini. Cavolo! Quanto è grande più o meno? È grande quasi tutto l'avambraccio. Tutto l'avambraccio. E là ti ha preso poco. Quante sedute? Una in una sera. 5 ore, dalle 4 alle 9. Cazzo, bravo, Bravo. Proprio fatto bene. Proprio le pieghe che ha sopra, gli occhi, bello. Veramente, guarda, un capolavoro. È uguale a lui, è uguale, una fotografia. Io gli ho fatto una foto ed è precisa. Ti stavo dicendo, mi ha detto che era la 3,50 perché mi ha detto che c'era molto lavoro. Però siccome gli ho portato altra gente, mi ha fatto questo prezzo. Oh già, ma sei appena saturo? Io? Sì, controlla se sei attaccato. No, da me non è saturo. Guarda, 1, 2, 3, adesso non sono saturo. Sì, già, avevi lasciato acceso qualcosina? Perché ho parlato con Valerio, era al basso passo, ho pensato che non mi sentisse, allora ho lavorato. Sì, Luca, ti dicevo. Tu la stazione saldante ad aria calda l'avevi poi comprata? Eia, è lui, eia. No, oh, sai perché? Una persona ha dato a Pomponi un apparecchietto da mettere a posto, ma è tutto SMD, è una cosa impressionante. Antonello non c'è riuscito a metterlo a posto. Non c'è riuscito. Purtroppo lì ci vuole quella, glielo ho detto, ci vuole la stazione saldante, bisogna avere anche la mano ferma e la vista buona e una lente di ingrandimento pure. Ma quella c'è da cambiare qualche componente? Ma no, mi pare un finale, tutta roba micronizzata, è di Bacchisio praticamente l'apparecchio. Diciamo che è quasi un baracchino, ma... Ho capito. Il problema cos'è? Non accende? Quello lo sa Antonello. Cosa c'è da cambiare? Purtroppo gli apparecchi sono usa e getta cinesi, capito? Poi non c'è un'assistenza italiana ufficiale. Di quella marca no, di quella marca proprio no. Diciamo è un bipanda, dai. Ma questi cinesi che stanno usando il PMR? Da noi? Sì. La PMR e si sente dal microfono, non so come cacchio si fa, ce l'hanno collegata sicuramente al microfono, lei prende il PMR e chiama, si sente al microfono. Sì, avranno collegato... sai l'uscitina altoparlante all'amplificazione lì. Li ho visto usare anche i Baofeng 888, quelli senza tastiera, senza display, li ho visto usare. E chi è che non li usa? Poi c'è da Osciano, ho visto a una delle Foot Locker, ho visto un Polmar Work 3 pseudo omologato, non lo so se è omologato. cioè ufficialmente omologato. E adesso li stanno usando molto, in questi grandi magazzini, eccetera, eccetera, li stanno usando molto. Li ho visti anche da Bricom, che ce li hanno, li chiamano qui a radio. Si è desiderato nel reparto, eccetera, eccetera, dico il numero del reparto. Sono rientrato? Sì, vedo quando c'è la commessa, no? È duro, è scappellato. Ma io fai l'ausilio, Marco, parla di altro, mamma mia. Avete parlato in due, vai Gianni. Noletta, Luca, com'era il viaggio lì? Ti piace? Non ho capito, ah sì. Ma avevo già visto altre volte, l'anno scorso pure. Vabbè. Beh, diciamo che sono sceso perché mamma adesso non fa le punture, la fa solo la notte e basta. Perché le glicemie sono buone. Ma ti ha fatto la vista ieri e gli hanno detto di continuare così, senza abusare della roba da mangiare. E zuccheri zero, niente, nulla. Possibilmente nulla, manco. Tanto gli zuccheri ci sono da tre parti, tutte che lì poi si va a mangiare qualcosa di dolce. E niente, mi ho approfittato e sono sceso, visto che dalle 5 e mezza, 6 e mezza, non mi ricordo che era iniziato, tanto dovevo essere a casa alle 9 e mezza, 10 meno un quarto, a voglia. Sì, comunque gli ho dato le pastiglie a mamma già. Hai visto? E allora ha migliorato, aspetta lì. Io invece sto peggiorando. Lei ha migliorato, io sto facendo 4 adesso di più al giorno. E quanto ne sta facendo di unità, no? 14. Sai quanto ne faccio io? 25 la notte, 25 a pranzo, 25 a cena. Cazzarola, si è messo male. E le glicemie come sono? Sempre alte. Non è una questione di cose, non riesco più a fare dieta, è un casino, non riesco più a far dieta. Tra l'altro, mangi tranquillamente, pure dolci mangi. No, dolci non ne sto mangiando. Solo che, per dire, se c'è la salsiccia che mi piace, due fettine me ne faccio, anche qualcuno in più. Formaggio mi piace, tutte queste cose qua, cose che non posso mangiare, non mi piace, non ce la faccio a resistere. Ma ascolta, le glicemie come sono le tue? La minima, cioè, questo così. Sono ballerine, quella della notte non riesco mai a regolarla bene. Quella della notte arriva anche 260 la mattina. Però quelle del giorno, se mi regolo con mangiare 90, 85, 120, però la notte è quella che mi frega di più, non riesco a regolarla. Allora mamma, tipo, se già, vabbè, alla prima di tutto deve misurare due glicemie, una, faccio un esempio, oggi a colazione e a cena. Niente, non gliene misuro, poi domani mattina non gliene misuro, gliela misuro a cena, a pranzo e alla notte, poi viceversa faccio colazione e pranzo, così, capito? Solo due volte al giorno e già sta bene, dai, sta bene, però mamma a camminare già non si stanca subito, non ce la fa, deve camminare, comunque prende questa pastiglia con la V inizia. Niente, dai, diciamo che un po' mi sono salvato. Per fare la notte non mi interessa, tanto io rientro verso quell'ora, perciò mi viene anche, diciamo, facile fargliela. Poi se devo uscire non è un problema, vado alle 9 e mezza, 10 e un quarto, mi faccio la puntura e esco. Poi la mattina non c'è bisogno di fare l'insulina, a pranzo neanche, a cena neanche, e sono salvo, dai. Se riesci a tenere questo regime alimentare, va bene che la tolgono pure, a me me l'hanno detto, se tu hai un diabete da pasta, se tu riesci a regolarti col mangiare, non prendi né medicine, non fai insulina, non fai niente, è tutto da te che dipende, e da me che dipende, io stai 3-4 mesi facendo dieta, poi non ce la fai più, è un attivio, cazzo, vedere gli altri che mangiano e tu non puoi mangiare nulla, ti invita a cena e non puoi essere come un ebbe, se ti viene anche il malumore. Io grazie a Dio non ne ho problemi. Ho smagrito tantissimo, 7-8 kg, vabbè, durante l'estate. Adesso li riprenderò sicuramente. E come me, io ho dimagrito un po' l'estate, adesso faccia non ne avevo più mica, niente, lo piace. Già, lo sto condividendo su Facebook, così c'è un tatuatore, perché a quanto pare si vanta troppo, ma adesso pubblico il tuo e scrivo che l'hanno fatto un amico. L'hanno fatto dalle parti di Alghero, vediamo un po' cosa dicono. No, qui Alghero, non dalle parti di Alghero. Ma tu hai detto Alghero? In via Alghero, via Alghero, 69. Non lo sapessi, chi è questo? Si chiama Sassari Club Tattoo. Cavolo, giovani sono, o grandi d'età, cioè, l'età mia, là. Tutti giovani sono, giovanissimi. Giovane, giovane proprio, c'è anche una ragazza molto brava, perché mentre lo faceva a me lo faceva da una, questa ragazza lo faceva una ragazza sotto il seno lì, e ci ha fatto una cosa troppo bella. Bello, bello, avanti Marco, riprendi. Eia, Claudio, ma che non ti fai sul braccio Filippo? Non attendi, no? Perché Filippo è grosso, non ci sta. Sì, basta rimpicciolire il viso, già ci sta. Ehi, ehi, è ben fatto, molto ben fatto, l'hanno detto tutti. No, il viso è quello originale, quello di te è originale, è tutto come fatto dalla fotografia, impostato con, con le stesse misure, tutto quanto, e messo sopra. Che ha tutte quelle righe, dovrà riempire qui, diciamo, quegli spazi che c'erano internamente, no? Tipo un osso cervo, eccetera. Quello è stato, come l'ha detto, ci stava mettendo un bel impegno, stava, lo vedevo pensando, ripensando, controllando la foto e guardando, cioè guarda, ha proprio un criterio facendo le cose, questo ragazzo che è allucinante. E giovanissimi sono adesso. Chissà se erano l'istituto d'arte pure loro, tanto tutti da lì arrivano lì. Lì si fa disegno, ornato, capito? Quindi che è bravo e geniale come Manola e è finito a fare i tatuaggi. Allora io dico una cosa, la scritta Taiso, l'hai vista quanto è bella? Me l'ha fatta a mano libera, così la scritta l'ha fatta. E poi l'ha passata con gli Aghila. Prima l'ha fatta a mano libera, ma tu devi vedere che... ed è anche mancino, infatti è questo. Questa è la scritta Luca, l'ha fatta a mano. Chi è Bobo? Franco, sei tu? No. Ci vuole maestria lì già. Io c'ho una brutta... io farei sgorbi, farei, mamma mia. Mi faccio il gatto allora io sul braccio, ah, il gatto col nome, sarebbe bello, ma no, poi non esce più, sai, preferisco ricordarmi il gatto con la mente che non tatuandomelo sul braccio. E vabbè, io me l'ho tatuato perché sai, sono la merità, io lo dovevo e l'ho fatto. Ma dai, sono il pugile? No, dai, sono il lucanino. Ah, capito. Va bene. Io, i cristiani a volte sono meglio dei cristiani. Claudio, ho detto, perché non ti tatui il viso di Filippo sul braccio? Niente, io ne ho uno tatuaggio, mi basta così. Va bene così. Assolutamente negativo, basta, uno più che sufficiente per me, non sono più un ragazzino, non mi interessa. Chi è che voleva entrare? No, ero io, già, sai cosa è questo tatuaggio? Allora, aspetta, allora, se fosse stato, cioè, diciamo la faccia un po' giù, sembra che invece lo avesse tutto pari. Cioè dritto mi. No, non è così, non è come dici tu, la foto era così. Perché sai, quando l'abbiamo fatto quella foto lì, era praticamente sdraiato col muso che comprimeva verso il divano. Capito? Quindi una guancia che risultava così e un'altra. È proprio come era lui, sento bene, bene, dai. Vabbè, dai. Non so che arriva la Pantera. Oggi sono rimasto a casa. Mi sono preso un po' di fede, dai. Ultimamente mi sta, il rapporto sta andando un po' maluccio. Secondo me la troppa pubblicazione è un casino. Allora, vabbè. E dico sempre, meglio soli alla fine, meglio soli, non avrei problemi, ma non ho qui dove c'è il telefono. Chi è che ha fatto popò? Giulio, tu sei? Sei Leonardo. Vabbè, scandalizzato per i tatuaggi, Giulio. Io? Che cosa me ne frega a me? Me ne frega molto a me di tatuaggi. Ognuno fa quello che vuole. A me non piaccio. Non per questo la gente non è libera di fare quello che vuole. Buonasera a tutti comunque. Vabbè, vabbè, ciao Giulio, allora ben entrati, io chiudo dove sta arrivando la Pantera. Se no dice che sta un baracchino e a lei la lascio fuori da parte, ma vabbè, ci sentiamo dopo, dai. Mai fai da cattivo? No, già, scusando il termine, fai la brava e guarda le sedere, a me non piace, capito? Poi tu ci sei anche in mezzo, sai, hai più esperienza di me, perciò. A voi. Beh. Io, se non mi va liquido adesso. Cosa? Ho detto, se non mi va liquido. Vabbè, e così devo fare quello che ho fatto io, tanto non mi va bene niente. Vabbè dai, che ha bussato, ci sentiamo, ciao, grazie per la chiacchierata, ciao Claudio, Giulio, Marco, Gian, ciao, ripeto. Ciao, ciao, ciao, bene. Avanti Giulio, buonasera. Ok, ciao, ciao Gian. Se ti piace, hai fatto bene a Marco, per cui, poi gli altri, ma pensino come credono che se ne frega. Ognuno di nella sua persona è libero di fare quello che crede, lo crede. Buonasera, ben ascoltato. Vabbè, ognuno fa quello che piace fare. Non dovrei dare conto a nessuno. Liquida. Se non va liquido, liquido. Già c'è vendendo, è detersivo. È così adesso. Non è questo. Sì, scusa, già. Io ogni tanto vado in affaria. Va bene. Anche queste sono cose che bisogna fare. Marco non ha problemi. Marco, i liquidi se li beve. Bene, sì, comunque quando le cose non vanno fuori dalle scatole. E quello è il bello di non sposarsi. Stai con una quando alla fine le cose non vanno bene. Ciao e arrivederci. Perché non devono andare bene, non ho capito. Io sono 40 anni con mia moglie, non ho capito perché non devono andare bene. Dipende dalle coppie, ci possono essere delle cose che poi subentrano dopo tanti anni di matrimonio, non è quello il problema. Vabbè. Ognuno c'ha la sua, io grazie a Dio va bene così. Speriamo che ci lasci una vecchiaia a farci compagnia, vero Mastro Giù? Sì, già lo credo. Io ho 46, per cui, 46 già sposata, più fidanzamento, insomma 50 anni, 50 anni insieme, va bene. Andave, Marco, tornando al discorso del tatuaggio, aspetta che io ho nipote che poi sogni con chi mi ha. Con chi ha voglia di farsi i tatuaggi, figurati un po', non è a Sassari, è fuori in Italia, però ha un suo laboratorio appunto che fa queste cose. Quindi io devo prendere due anni dalla gente che fa conto mio e guarda, così dice lui, poi. E tanto lui fa i suoi, capito? Non so i tatuaggi come mio, perché chi fa i tatuaggi è sempre pieno. Appunto, se te lo sto dicendo, perché lui ha fatto una battuta scherzosa, no? Di sono un po' quasi di mente, così tra virgolette, chiaramente. Però lui fa i soldi e va bene, si è inventato un lavoro e ha fatto bene, sono un laboratorio a Bologna, per cui vedo un po'. Bologna. A Bologna, sì. Poi a Bologna ne ha anche uno in Spagna, ne ha. Sì, magari Emanuela l'ha visto, perché Emanuela è lì a Bologna, studia lì. Probabilmente l'ha anche visto da laboratorio, perché già gira, anche se è grande Bologna, la gira lungo e largo. E probabilmente l'ha anche visto lo studio. Certo, è possibile, certo. Per dirti, no. Lui lavora, si ha fatto come bravo nella pittura, eccetera, anche prima doveva, avrebbe dovuto fare pittore addirittura, ma è tutto un artista, è bravo. E allora avete considerato, perché questo boom adesso di tatuaggi, lui ha pensato di fare queste cose qua, e sta andando alla grande. Meglio così, buona fortuna a lui e auguri a chi si fa i tatuaggi, cosa vuoi che ti senta? No, a me piacciono, non mi piacciono tanti, quello sì, tanti, mi sa di sporco, ma due si possono anche fare. Due tatuaggi, come ci do io, si possono anche fare. Uno è, vabbè, è un'opera d'arte, cioè te lo mando, è un'opera d'arte, cioè è una cosa allucinante. Grande, ricordati, io voglio dispari sempre, ciao. Cosa? Che vogliono dispari, ciao. Sì, ma già, magari dovrò fare i nomi di miei figli, sicuramente mi dovrò fare. Se non ti fai mandare la foto da Marco e ti metti a Marco nel braccio? No, ma basta che quello fotografi da coso, da WhatsApp, sono andato a Pignara. Ah, te vai un pipistrello sorto e ci scrivi Marcolino Condo. Meglio. No, non sarebbe molto bello avere il mio viso sul braccio, per carità. No, lo pipistrello, no, il viso tuo proprio non lo voglio vedere. Lo pipistrello, sotto mi scrivo il nome d'oio. Vabbè, certi tatuaggi sono carini, i ragazzi fanno un delfino, sai quelle cose. Quelle cose anche monocromatiche, piccoline. Ma certe ragazze sembrano delle galeotte, mamma mia, sono allucinanti. Probabilmente gli piacciono anche i ragazzi così, tipo Corona, tutto tatuato. Non hai visto a proposito dei tatuaggi? Io non me ne ero accorto, pensavo fosse una maglietta, Giulio. Davvero, a Bernardeschi, come c'ha le braccia? Io sono Bernardeschi, è Messi, è quello della Roma, lo stesso. Nangola, fa fare dai, così è troppo, dai, così a dominarsi proprio il corpo, perché per me, sì, posso capire uno si fa un piccolo tatuaggio, ma anche bene, ma che uno si faccia una cartina geografica sul corpo, o un mappamondo, è proprio una vergogna, uno schifo. Io per me è sempre su di ciume, io quando vedo una persona tatuata così integralmente, per me è solo su di ciò che ha sopra. Io la penso così. Ti sto dicendo che ieri hanno inquadrato lo spogliatoio della Juventus, se c'era Bernardeschi stava cambiando Gianni a petto nudo. A me mi sembrava una maglietta. Completamente nero, completamente tutte le braccia, il petto, la pancia, la schiena, il corpo, cioè completamente non c'ha un buco libero. Ma così fa schifo veramente. Può andare in giro senza maglietta e sembra che ce l'abbia. Hai più giovane, un capo io fuma. Vai, oh Marco, hai ragione Giulio, lui sembra proprio di sporco. Sto dicendo sembrava una maglietta. Dite, ma io che con la maglietta niente, cos'è in lutto? E ho detto, papà, vedi che è tutto tatuato. Tutto tatuato. Allucinante. Caridai. Però certi fanno ben oltre i tatuaggi. Fanno delle mutilazioni del corpo. Chi è che me l'ha detto ieri? Uno che si era fatto togliere i capezzoli, no? Non so perché. Così, perché per essere originale. Oppure gente che si buca le orecchie, si mette quei cerchioni e vedi il lobo enorme con questo cerchione dentro. Oh, certe cose proprio non, quelle che si fanno tagliare la lingua a metà, no, e hanno la lingua biforcuta, che schifo. Ma te l'ho detto io ieri, svegliato, praticamente ha detto che il campetto dell'uomo non ci fa, non ci sanno a fare niente, nella donna servono per allattare i figli, ma nell'uomo dice non ci fanno nulla, se la fatti tagliare tutto, ma non solo il campetto, tutto attorno, e poi ha fatto aggiungere la carne e combaciava praticamente il tatuaggio che gli avevano fatto, perché questo era lo stesso, tutto pieno in faccia, nella fronte, pieno, zeppo, e la lingua ce l'aveva divisa in due. E quello non si è messo mai al sole, non gli si è sciolto mai l'ubico che puzzava in capo per fare una cosa del genere. Cosa ne pensi qua? Cosa ne penso? Io mi sento male solo anche di far vedere le cose. Allucinante, ma avete visto quello che è uscito a Canale 5, che praticamente si è trasformato, perché un ragazzo normalissimo, anche un bel ragazzo, si è trasformato completamente perché voleva diventare come il coso di Barbie, come ti chiama? Come ti dice? Ma allucinante, cioè è diventato uguale, da grande, umano, sembra praticamente il coso di Barbie. Ken. Ehi, come te Ken? Ken, uguale, preciso, identico. Migliaia e migliaia di operazioni, soldi a non finire. Ma è un casino di ventenni, ma... Sì, lo fanno anche le ragazze. Fanno queste operazioni che sembrano proprio delle bambole finte. Ma lì c'è qualcosa che non funziona in testa, amico. C'è qualcosa che non sembrano più nemmeno esseri umani, ma sembrano proprio bambole di plastica. Non si accettano come sono, probabilmente vogliono sembrare, vogliono assomigliare a qualche personaggio che è stato amato per tanti anni, eccetera, eccetera. C'è anche quello che si è fatto come Michael Jackson, quello che si era donna gatto, che si è fatto, si è trasformato la faccia, sembrava un gatto. Già, ti sembra una cosa normale. Io capisco, non ti accetti come sei, vai a migliorare per quello che sei, per come ti ha fatto Gesù Cristo. Ma e cosa vai a diventare un fumetto? Ma è bruttissimo. Cioè è uguale, capito? Bruttissimo. Non so. Vabbè. Uno c'ha un problema, sai, ci sono queste cosettine che ti possono mettere a posto. Per dire, io conosco una persona che a 50 anni sembrava che ne avesse 70, è andato, si è fatto fare due ritocchini e ora dimostra insomma l'età che ha invecchiato prima del tempo, ma è una cosa normalissima, e insomma non si accettava per l'età che aveva, è andato e ha fatto qualche ritocchino, ma di tutti i bossi a trasformare in un'altra bassona e spendere migliaia e migliaia di euro per fare che cosa? Che cosa vuoi dimostrare? Claudio, io sono del parere che la vita è al suo corso, bisogna invecchiare tranquillamente, non bisogna avere vergogna né dell'invecchiamento né di niente, cioè le fasi della vita sono quelle, bisogna seguirle tranquillamente senza stare a trasformarsi, tanto chi si fa le labbra, chi si fa il seno, si rovinano, capito? Ci sono donne che erano bellissime prima, capito? Si fanno le labbra e sembrano delle bambole gonfiate. Per carità, guarda, no, beh, sono d'accordissimo, bisogna accettarci per come siamo, la vecchiaia è una cosa bella, si invecchia, perché è la realtà, bisogna accettare anche quello, non bisogna sapere che rimaniamo sempre giovani, più grande si diventa e più vecchi si diventa, naturalmente, c'è quello che è... A 70-80 anni magari ne dimostra 60, c'è quello che a 60 ne dimostra 80, e purtroppo non tutti siamo uguali, però bisogna accettare la realtà, ma io vi te goge così, di trasformazioni soprattutto a quei livelli non le concepisco. Giulio? Beh, certamente no, per carità. Che ognuno deve vivere come è nato, per cui è l'originalità delle persone che fa la distinzione nelle persone. Tutte queste persone che fanno questi ritocchi a un certo momento non sono più loro, o meglio all'anagrafe sono rimasti loro, però poi di persona non sono più loro, tutte queste trasformazioni, tutte queste donne che fanno, quella triccia addirittura, vabbè, quella forse aveva un motivo, però l'ha fatto per paura, che si è fatto ascoltare tutti e due i segni, e quella, come si chiama, i Giulì, quella triccia, perché aveva paura, perché la mamma, diciamo, aveva avuto questo problema, e allora lei per paura di avere anche lei questo problema si è fatto fare quell'operazione, si è fatta ascoltare i segni. Non lo so, io dico che la natura deve andare avanti e nel modo in cui è nata, non puoi trasformarsela così al suo piacimento. Per me significa deprezzare il valore della persona stessa, io la penso così, poi quella lo dico. Vai Marco. Eia. La donna gatto credo che sia un altro degli eccessi, si è fatta proprio limare i denti che sono a punta come quelli del gatto. Ma quando vai a fare la spesa, che ne so, quando vai da qualsiasi posto, ti guarderanno come una specie di fenomeno da baraccone. Poi c'è quell'anziano che avete visto sicuramente in TV, quell'anziano tutto tatuato, qualsiasi punto del corpo è tatuato ed è tutto pieno di piercing, tutto, dalla testa ai piedi, l'avete visto? Mi pare un po' rimbambito anche, sicuramente l'avete visto. Non era quello di tempi moderni, ma... Eia. Già l'ho visto, sì. Quello lì era represso dalla madre perché non voleva farsi i tatuaggi, usciva in abito e cose, l'hanno fatto vedere prima e dopo, usciva in abito, tutto tirato, lui per vivere a casa della madre. Quando la madre è morta, praticamente ha fatto tutto quello che non gli ha fatto fare prima. Per non dare dispiacere, non l'ha mai fatti, quando è morta la madre si è riempito di tatuaggi. E mio padre aveva detto, me lo ricordo ancora, quello l'aveva visto anche mio padre per programma lì, e ci aveva un anello nel naso e poi non un anello, un ferro che riusciva da una parte all'altra. E mio padre ha detto, e questo quando gli viene il raffreddore come faccio a fiarsi il naso? Deia, ma quello credo che campi lo stesso così, andando alle trasmissioni, nei locali, che ne so, discoteche, cose, campa così, e se no che lavoro può fare quello? Non lo prendono, qui ha già una certa età il tipo, una certa età. Ma anche Giulio è tutto tatuato sicuramente, Giulio si tatua, si è tatuata la pialla, la sega a nastro, la levigatrice. Ah Giulio. No, a me se è tatuato in banca e basta, poi per il resto, sicuramente. Assolutamente no. Tu immagini quelle persone, c'è quella donna che ha le unghie lunghe, mi sembra 1,80 m di lunghezza, come ha fatto questa a farsi crescere le unghie così? Come fa a fare le cose giornaliere, ad lavarsi, a muoversi, a prendere in mano gli oggetti? Come fa? Boh, cose pazzesche, guarda. Quello sto dicendo, è gente malata che non ha preso mai il sole e dunque non si è mai sciolto due macchine che può stare in capo. Vai, là. Sì, l'avevano fatto vedere alla Guinness dei primati. Ok, a proposito di Guinness dei primati, stamattina mi ha chiamato Gianni Capridue, vi saluto a tutti, ha ricomprato l'antenna nuova, la deve piazzare, ha ricomprato la radio e adesso si sta rimettendo tutto in carreggiata ed è morto il padre un paio di settimane fa. Ok, quindi dice adesso sono un po' più libero perché prima ero sempre vai e vieni con babbo e adesso sono sempre più a casa, quindi rimetto tutto nuovamente com'era e fra un po' entrerà, capito? Glielo ho detto, siamo qua sul canale 10, quando vuoi facci sapere, vi saluto a tutti. Mi dispiace per il padre, speriamo che sia passato l'antenna, perché l'ultima volta l'antenna era incantata, ho preso la troncata, l'ho buttata in. E infatti adesso è molto più sereno, stavo appunto raccontando altre cose, vabbè qua non le dico, comunque ci ha ricomprato una radio, K sempre come quella che aveva, e l'antenna nuova. Adesso avete appena, c'è 5 minuti, adesso iniziate anche, sono iniziate le scuole, appena 5 minuti col figlio ripiazzano l'antenna, dov'era, la tirano anche un po' più su, mettono i tiranti, tutto, capito? E si farà sentire. No, già avuto, il padre ha avuto un tumore, insomma gli è venuto in poco tempo, se n'è andato, va. Oh, yeah. Ed era per la lui, per la tipo era. Andava sempre ai concerti, seguiva molto il nipote, e adesso il figlio con chi sta? Stava col padre, il figlio grande. Lo so, però quelle cose non perdonano, infatti me l'ha detto oggi è poco tempo, era Ardillo, stava sempre andando e tornando, a destra e a sinistra, e niente, vabbè, comunque, ha detto che a breve già si farà sentire i salutarvi tutti, gli ho detto siamo qua, più pochi rimasti, ha detto che già si fa sentire, intanto sicuramente mi dovrà portare anche la radio perché devo farle una taratura, una modifica, e perciò poi già... Va bene. Io però vi devo lasciare, mi devo allontanare un attimo perché devo montare le tende, stamattina le ha lavate mia moglie, quindi devo ripiattarle, sennò è un casino. Vi ascolto, se ci siete dopo rientro, tanto devo mettere e piazzare queste due tende nella camera da letto e poi sono qua a fondo. Ok, riprendi tu Marco, fai girare, dai, rimango in QRX, ascolto un attimo. Seia. Dai, ok, siamo qua, dai. Vabbè, io forse, sai, nonno mi ha accampato nonno, lui era molto tradizionalista, diceva gli uomini portano i pantaloni e le donne le gonne, quindi, ma poi non mi sono piaciuti mai personalmente né orecchini, sai, la perlina come si mette, nulla, niente, e vabbè, meglio così comunque. A me modernità, ma fino a un certo punto, poi si scade nel... Insomma, vai già, dai, che mi trovo il termine giusto. Buzzurro. Mia Natalone. Ciao Marco. Ehi, Gianni. Ciao Natali. Nanna, adesso mi ha fatto dormire col tavolo di antidolorifico che mi ha preso e me ne sono svegliato adesso. Luisa ti ha azzeccato, Marco. Via. Tutti addolori siamo, io ho un po' di mal di denti invece, ho un molare bucato, pare una caverna, è uscita l'otturazione, è come ci vuole un po' di dolce o di freddo, guai. Mamma mia. È poco particolare, sia il caldo che il freddo diventa sensibilissimo senza il colbucco, cazzo, è allucinato, si va sul nervo direttamente. Ciao Natalia, ma stavo chiamando a Gianni KP2, ma a quanto sembra ha cambiato numero, perché mi dà il numero esatto, eppure ce l'ho registrato da qualche anno, evidentemente ha cambiato numero, non lo so, vabbè comunque, se si fa sentire ce la facciamo ridare. Avanti Natalia. Scappa, ciao Giù, buonasera. La voce più grossa come il drumito. Adesso sto tornando al rubinetto, così ti svegli subito Natalia. Le prende qua. Si è allontanato un attimo Giulio. Oh già, io di solito al telefono rispondo, pronto? Quando sono normale, quando sono drumito, pronto. Si sente subito che non si è svegliato in quel momento. E anche io rispondo così lo stesso. E beh, lo fa, no, perché quando sei mezzo drumito non è che non va qui qua guida, è normale che ti faccia così. Ma lo dicevano subito, ma stavi dormendo? Io quasi, viene la voce più rocca, ma sono senza parole. Cedo la parola al deputato Natalino. Magari, se no adesso se non sarei stato al baracchino, sarei stato deputato, sarei stato impegnato a rubare i soldi degli italiani. Eia, ah? Se immagini, bello, fare così. Guarda, per quello che fanno poco, prendono anche troppo di soldi. Più vitalici, caspita, la sceicchi, eh? Bisogna distribuire meglio la... il denaro, capito? Perché ci sono troppo ricchi da una parte e troppi poveri dall'altra. Più una classe media, vabbè, che sta benino. Ehi, non ti credere, no? Anche quelli medi sono diventati poveri adesso, a quanto ho visto, guarda, c'è gente che, che aveva il lavoro, dopo ha perso il lavoro e sta andando alla Caritas. E quando mamma mancherà finirò anch'io alla Caritas, a fare l'elemosina. Ciao Natali, guarda già dove ho messo la radio, per quello ne ho tolto le maniglie, guarda che bella che è lì. Non è arrivato nulla ancora. E vabbè, guarda quando ti arrivi. Ho fatto un po' d'ordine, dai. Guarda che è troppo in alto, non piace. Sta molto meglio lì. Capito? Ho spostato il 4.30. Ci ho incassato quella che è molto bella così. Mi piace di più. Va bene, sì, sono senza parole. Ma forse il baracchino sta cominciando a stufare, chi lo sa? E vabbè, se non ci sono argomenti non si provi da di altro. Cosa vuoi fare? Vabbè, tratta lì. Ehi, ciao Cla, buonasera, ben sentito. Com'è, com'è? Pescare non bisogna già andare. Oh ya, yeah. Cosa pescare? Se c'ho il macolo, c'ho, e dopo su cammina, cosa vai a pescare? Adesso mi fa male pure il ginocchio, non solo che la parte destra del femore dove sono caduto l'anno scorso. Natale, l'unica cosa sono l'inizio, ne ho provato mille cose, volta nei muscoli, sì. Lo so, lo so. Ho preso un antidolorifico e me ne sono cominciato ad altura, perché lo corso. Però il dolore quando te ne alzi c'è, non c'è nulla da fare. Adesso è un po' più leggero, ma vai a pescare, quando c'è da camminare, vale. Ci vuole il Vicodin, quello del dottor Ausmi, che è a base di oppiacei. Sì, ci vogliamo pure, allora siamo a posto. E anche tu chi non ti fa dire? Ok, ma io preferisco il Brufen, lo sai, ho sempre preferito quello. Anche a mamma lo prende per la gamba. A proposito di gamba, l'amica di mamma, collega di scuola, stava camminando via Le Trento, è scivolata su una cacca di cane, premetto che aveva già le osteoporosi, è caduta e si è rotta il femore, poveretta. Adesso deve stare un bel tempo a letto e la deve seguire la nipote. Mamma mia, con le osteoporosi è ancora peggio me. Non lo so se si salda in fretta poi. Poi è grande, ha 70 e più anni. Figurati, io. Ma non rimanga nel piaga, perché se no non se la salva. Non sono così anziani, mi si rompe il femore, siamo nella stessa posizione, vengono le piaghe, lui. Eia. Anzi, io credo potesse più succedere alla mamma di cadere, invece per fortuna. Ma pensa, io credo inciampata, sai, in un buco, in un gradino che sporge, su una cacca di cane scivolata. Quindi la colpa è di quel fetentone che non l'ha pulita, che ha fatto fare la pupù al cane e se n'è andato. E sono molti, ti assicuro. Prego, avanti. Buonasera a tutti, Barracuda. Uè, e poi Antone, come stai? Si tira, si tira. Vi ascolto sempre e attenzione, non vi ho mai abbandonato. Questo ci fa piacere, ma ci fa piacere se ritardi anche a salutare. Stavo chiamando l'antenna, mio, che ho tutto finito dunque, sono di nuovo super operativo. Ci santo ne è penetrato dopo tanto. Devo accendere un cero, mi, che c'è entrato. È andato a pignara. Pigliarla. Per il Claudio, avanti. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Ma cosa hai messo l'antenna nuova? Ah no, è l'ultimo vento, mi aveva piegato il tubo, una cosa e l'altra, dunque. L'avevo tutta smontata, me l'ho ripulita, risistemata con tiranti in acciaio. Un tubo come si deve, dai, ho fatto un lavoro abbastanza minuzioso, no? Adesso è sempre la stessa. Sempre la stessa, però rinforzata al 100%. Adesso già non si muove più da lì. Vabbè, chi comanda l'antenna è sempre il sostegno, quindi il tubo e l'ancoraggio. Ma Giulio non c'è più, Giulio ci sei? Sì, ci sono. Ciao Antonio, ben entrato dopo tanto tempo. Tutto bene, sì, lavoro. Poi lavoro è quello che è, aggiornate come sempre, aggiornate. Per il resto si tira, dai. Poi intanto non ne manca mai qualcuna, ma per il resto già. Piano piano stiamo andando avanti, ecco, sempre la solita routine. Tutto lì. Quanto me? Dimmi. A proposito di lavoro, ma ti sei avvicinato alla mondoconvenienza? Sì, sono andato lì, mi hanno preso per una settimana, è stata una disavventura. È un pochettino lunga, se vuoi te la spiego, e poi niente, mi hanno mandato via in poche parole perché io non ho firmato un documento che mi hanno dato, diciamo, è un documento in bianco, devo firmare, io documenti in bianco non ne firmo, e allora mi hanno insistito due o tre volte, mi sono rifiutato, e poi dopo una settimana mi hanno licenziato. Orari, dalle 6 del mattino sino a mezzanotte, le 11, le 10, da lunedì al sabato, e secondo me dovevi lavorare anche la domenica. Poi dalla favola, dalle 6 del mattino sino a mezzanotte, le 11, dipende, comunque gli orari erano sempre quelli, 50 euro. Non ho parole, allucinante. Le dimissioni in bianco ti vogliono far firmare praticamente. Mamma mia! Ma in poche parole, allora, prima ero assicurato come certo livello, poi a parole da terzo diventavo secondo livello, appioppiandomi, diciamo, mettendomi sul groppone delle mansioni. E cioè, che mansioni devo affrontare? Quelle le vedrai lavorando, no? Me lo scrivi o me lo dici? No, le vedi lavorando, firma il foglio. E io foglio non ne ho firmato, perché sai, la fregatura è sempre dietro l'angolo. Non l'ho firmato e per quel motivo lì mi hanno licenziato perché, diciamo, il contratto c'è scritto che io non ho superato la prova di lavoro, ecco, l'hanno mandata così. Tutto lì la situazione. E guarda, ti giuro, ci sono stato una settimana, ho visto gente piangendo, persone adulte piangendo, che non ce la facevano più dal lavoro che devi affrontare tutto il giorno. Guarda, è da vivere in quel posto lì, è incredibile. La società rosa è quella che fiorisco, ohia. Sembra tutto quello che tu ci volevo dire, ma sembrava così. Con tanti furgoni, tante cose, ho visto che c'è tanti furgoni. Ho pensato che fosse una ditta molto seria. Già, ma di cosa si può vedere? Di mondo conveniente. Ho comprato il furgone, ma tu lo sai cos'è il mondo conveniente? Multinazionale, mi già, lascia per. È una delle più forti aziende a livello di arredamento casa al mondo, perché si chiama mondo conveniente. È fortissima, furgoni ce ne saranno 200, è una cosa allucinante, siccome conosco uno io che, vabbè Antonio, forse l'avrei visto, però è un responsabile, ma era già su in continente, siccome è sardo e tanti anni che lavorava su, quando hanno aperto la filiale qua, l'hanno trasferito, ed è responsabile del merci, dai. Ma scusate un attimo, ma io ho sentito che tutte queste macchine che ci sono, questi furgoni eccetera, sono praticamente tutti i dipendenti, tutti piccoli padroncini. Tanto è vero che prima dice che hanno cominciato a tenere la roba dei 120 e adesso si sono ridotti a 40, tutti eliminati. Io non so se sia vero, ma ho sentito così, l'azienda sì, ha tutte queste macchine nel mondo come niente, ma in realtà sono tutti piccoli padroncini, e se è così si può immaginare l'azienda non paga l'accidente di contributi. Aspetta Giulio, Minestro, sai cosa è? Questo è per cui mi hanno raccontato che ci lavorava lì. Dal momento in cui tu firmi quel documento in bianco che avrei dovuto firmare io, automaticamente io divento, tra virgolette, padrone titolare di quel furgone. Se fai un incidente viene detratto dallo stipendio, rifornimento, diciamo il giro del motore, quello è sempre a conto dell'azienda, ma se tu fai un graffio lo paghi, se, cosa ti posso dire, se lo rubano sono a carico tuo, è la tua responsabilità di quel furgone. Dunque firmi quel documento, il furgone per esempio c'ha un numero 554, ecco quello è addebitato a me. C'è anche quello da contare, ci sono tante cose da dire, ma non faccio al baracchino, sinceramente, ne ho visto tante. Sì, è così Giulio, diventa tu automaticamente senza volerlo, e poi tutte altre, diciamo, regole che devi seguire, guarda, è neanche al terzo mondo cosa del genere, purtroppo è così, però purtroppo la gente va perché ha necessità e gli piace essere sfruttata, a me sinceramente no, fino a un certo punto dare il sedere. Ognuno la vede in modo diverso, ci sono tante altre cose ancora più brutte che ho visto lì dentro, qua in 6 giorni, immagina che ti fai una vita lì dentro. Lo conosci il responsabile, quello del medico? Sì, ne hanno conosciuto diversi, la maggior parte sono anche rumeni, attenzione, sì, l'ho conosciuto. No, questo è continentale, non... ma continentale sardo, lavorava sul continente alla filiale che c'è lì a vicino a Milano, ma è una brava persona, è della provincia di adesso non mi ricordo se è della provincia di Cagliari o di Oristano, capito? Però ha fatto casa qua a Sassari adesso, no, una brava persona, io l'avevo conosciuto tempo fa, perché addirittura inizialmente lui lavorava con Ferrama, capito? Con Conferrama. E poi invece è andata a finire mondo convenienza con la filiale di Milano, capito? Allora le macchine, tutti quei mezzi sono leasing plan, come quelle che abbiamo noi, né più e né meno. C'è una cosa di differenza che a te non ti hanno fatto, perché il fiorino che ho io, leasing plan, che è la mia società praticamente, ha dato a me in dotazione, a me non me l'ha messo il foglio bianco, io ho tutto un sistema dove appunto prima ho letto, prima ho verificato eccetera e poi ho firmato, ma non è automaticamente tua la macchina, ce l'hai tu in dotazione e qualsiasi cosa naturalmente succede alla macchina, se tu da ubriaco ti sbatti al muro la macchina la paghi, ok? Se tu in una discesa non tiri fra una mano, la macchina si sbatte al muro, tu la paghi, ma se ti vengono addosso i danni non sono addebitati a te, ok? I consumi della macchina c'è scritto nel foglio che ho firmato io, che preferibilmente è il titolare della macchina, quindi quello che usa la macchina come me in questo caso, è preferibile rifornire al self-service, che il gasolio costa di meno. Io non ho problemi, rifornisco al self-service perché il servito costa di più, quindi loro vanno a risparmiare. Sono delle clausole che rispettarle non costa niente, ok? Ma io le macchine ci hanno tutti la casco, quindi non dicano balle, perché la legge impianti praticamente ti obbliga sul quando tu prendi la macchina ad avere la casco come copertura, ok? La macchina viene cambiata o a 100.000 km o ogni 2 anni, o 2 anni o 100.000 km, come fanno a noi? Perché io tratto la legge plan, sono stato anche responsabile dei mezzi nella mia società, quindi so cosa vuol dire. A me è capitato che il vento ha parcheggiato la macchina all'interno del cancello di un impianto, ma ero già dentro l'impianto, c'era proprio la coda leggermente, mancava, non lo so, adesso non mi ricordo, comunque mancava qualcosa. Il vento ha aperto il... chiuso il cancello di colpo ed è andato a graffiarmi la fiancata. Io ho fatto le foto, ho fatto tutto il procedimento come c'è scritto nel foglio, perché c'è scritto tutto. Naturalmente tu hai fatto bene a non firmarlo in bianco, però c'è scritto tutto nel mio. Io ho seguito tutta la prassi, ho mandato tutto dove mi hanno letto loro, ti dico anche carrozziere, da De Paolini a Predanieta, perché è lui che si occupa della leasing plan, dell'Arval, di tutte le macchine di leasing, ce li ha quasi tutte lui. Mi hanno riparato la macchina, a me non mi hanno detto manco qua, non ho manco firmato niente, ho detto sì, vabbè, devo firmare, no, non deve firmare niente, lei è tutto via automatica, non si preoccupi, la sua prassi è finita, hai fatto bene a non firmare niente, però il procedimento di quei mesi è quello, ok? Giulio, padroncini non ce n'è, lì sono praticamente a paga oraria e c'è qualcuno addirittura che lavora anche a chilometraggio, tu immaginai già di come ti sopporti. Esatto, anche a chilometraggio, esatto. E appunto, e allora a quel punto lì, no, a parte tutte queste cose qua, no? Beh, il discorso contributi, come funziona per queste persone lì, dal mondo conveniente? Il discorso è anche questo. Io faccio questo ragionamento. Siccome loro so che fanno dei prezzi stracciati nei mobili che vendono, eccetera, e mantenere un numero così elevato di personale, questa, non è che ci sarà tutta questa grandissima vendita di mobili, eccetera. Permesso che lavorano, senza dubbio, lavorano. Però non credo che sia sufficiente per coprire le spese. Com'è la questione assicurativa del personale? E questo discorso, che è quello che interessa di più alla gente, cioè al personale, poi della macchina, che se la frega, se si rompe, se la pagano, se la aggiustano. E io penso a quello, non dobbiamo pensare ai mesi che non sono personali degli operai, ma bensì al personale stesso, è quello. Come funziona Antonio? Giulio, il bello dell'assicurazione, sinceramente, scusa te lo dico, ma guarda, dopo prendi il foglio, se è stato male te lo leggo, non si capisce poco e niente, la verità, poco e niente, quello è poco ma sicuro. Poi la maggior parte dei mobili che vengono venduti costano poco, perché a mondo convenienza li produce lui, attenzione, la maggior parte sono di discreta qualità, alcuni proprio per carità, paghi quello, compri quello che paghi, c'è poco da girare, però la maggior parte dei mobili li costruiscono loro, dunque per quello che costano di meno. Allora io quando c'ero io c'erano 25 furgoni, dovevano arrivare sino a 30, ogni furgone ha 3 operai, o per furgone, per farti capire, lavora, che è una cosa impressionante, e questo te lo garantisco, c'è fame, ma qui la gente sta comprando, guarda, fiumi, dunque ogni furgone per 25 ogni giorno, finché c'ero io caricavano, per ogni singolo furgone, poi devi contare per 25, 3 cucine bisognava caricare, 3 camere da letto complete con letto contenitore, 3 mobili per il bagno, reti, materassi e divani c'era da caricare, e poi è anche una paretina, secondo com'era lo spazio. Tutta questa merce, bisognava sbrigare durante la giornata, tra una cosa e l'altra, 10 clienti per 25, fate il conto, questo è questione di ogni giorno, stanno facendo i soldi come la paglia. Dunque, chi ha Sassari fa Sassari provincia, questo che abbiamo noi a Predanieta, poi contano aperto a Settu e provincia di Cagliari, dunque la Sardegna è tutto di mondo convenienza, garantito al 100%. Sì, ma poi io che giro, cavolo, li vedo, ci sono sempre in giro questi furgoni di mondo convenienza, li vedo a Sorso, li vedo girando da tutte le parti, li vedo vicino a casa, e sono in vaga di questi furgoni, io non capisco come facciano a prendere così, ma infatti devono chiedere la qualità com'è dei mobili, è buona pure, adesso mi hai già risposto, ho detto che media qualità e qui ce n'è anche schifo. Trucciolare, già, trucciolare, oh Antonè, nella zona mia, quindi sto parlando dell'Isola Rossa, sono nati in giro di 2 anni, tra l'anno scorso e quest'anno, perché sono stati terminati proprio quest'anno, due villaggi a Schiera, che sono il gruppo Montoni, e uno Montoni e Terfita, che sono i più grossi in gallura per quanto riguarda la parte edile, come Pirio Montoni eccetera. Proprio la settimana scorsa, di quei mezzi lì, stanno arrivando tutto il villaggio. Allora, il villaggio sono 13 e 13 sono 26, 26 sono la prima parte, 26 mini appartamenti. Poi quella schiera è di 10, sono 36, 42. Ok, sono 42 appartamenti, ce n'erano 8 in fila dei furgoni di Mondo Convenienza. Scaricando stanno arredando tutto il villaggio, stanno arredando già tutto il villaggio. Con pochi soldi, perché affitta studenti, perché qui ha questi villaggi qua che affitta le case eccetera eccetera, perché queste cose qua convengono, perché non mettono un movimento, tanto te li rovinano, poi chi ci va a abitare li rovina e ciccia, ne mettono mobili così andanti e via. No, sono in vendita le case, non so, non le affittano lì, no. Le case sono in vendita e affittano solo nel periodo estivo, devono essere tutte arredate, sono ammobiliate le case, non deve mancare niente, quindi a parte i mobili, l'arredamento completo del bagno, come attentatore e tutto, ci sono le tende, ci sono lampadari, c'è tutto, deve essere tutto pronto, tutto, capito? Tutto, perché devono essere arredate per l'estate e per chi deve comprare, la deve comprare arredata. Quindi immaginate già di due, 8 furgoni in fila, guarda che quei furgoni sono grandi, sono centinati, io l'ho avuto un furgone del genere, sono le ante dell'armadio, ci stanno dritte, vero o no Antonè? E a voglia anche di quegli armadi, sai, con base e cappello, tutti uniti, no, tutto un pezzo rimane, sì, anche quelli in più. Ma gli fate il conto, quasi 40 appartamenti, 40 cucine, 40 camere da letto, 40 camerette per bambini, facevamo anche le camere a pompe, senza contare quelle, i bagni che comprende lavabo e specchio, divani con contenitore, divani letto, tavoli, sedie, guarda, garantito che stanno vendendo alla grande, è una cosa impressionante, ripeto. Servivano altri 30 furgoni per completare Sassari, e oltretutto Sassari è la prima cittadella dell'Italia dove Mondo Convenienza ha venduto più di tutta Italia il giorno che ha aperto, si può immaginare. Dunque tutti i piccoli negozietti che purtroppo stanno soffrendo a Sassari, quelli spariranno come negozi di alimentare, perché ormai non ce ne sono più, se ci sta mercato, no? Altrettanto farà Mondo Convenienza, i piccoli negozietti di mobili stanno sparendo. A me mi hanno licenziato, a maggio perché della Xilema Arredamenti, perché non stava più vendendo da quando ha aperto il Mondo Convenienza. A Carloforte, sono arrivati anche lì a Carloforte a consegnare, si può immaginare, anche lì quel negozietto Gianluigi lo deve chiudere perché non sta più vendendo, grazie a Mondo Convenienza. E così purtroppo la situazione. Poi in questo ambito della forza non ci lavori, non ci metti piede, guarda, non lo vedi, non te lo immagini neanche la potenza che hanno queste persone, regalando i palloni lì, i palloni, i palloncini, questi piccoli gadget, cosa ne so, fanno i negozi alimentari e ti danno anche le buste della spesa con Mondo Convenienza gratis, è tutto organizzato, vai tranquillo. Basta vedere quando hanno aperto, che cosa hanno dato in coso, cosa hanno fatto. Antonè è forte, Antonè è forte, perché io ne ho parlato con questo mio amico, è fortissimo, è forte, infatti hanno la produzione già, è tipo gruppo Iattone, una cosa del genere, capito? È un gruppo di proprietari, di imprenditori che hanno formato questa fabbrica, hanno fatto questa fabbrica di mobili e fanno anche l'esportazione all'estero, quindi, capito, è grossissima, non ci vuole Conferrama, non ci vuole Latin Mobile, non ci vuole, è grossissima, è un SPA per quanto riguarda l'Italia, all'estero è una multinazionale già, capito, quindi è grossa e sta lavorando tantissimo. Un esempio, non vorrei mettere i mobili di Appeggio con quelli di Mondo Convenienza, è quello che c'è, capito? Io guardo molto, se io prendo un mobile non lo prendo perché mi duri 2 anni, prendo un mobile che duri nel tempo e che abbia il suo valore, soprattutto perché siamo qui, sto pugnando il suo parole, questo lo può confermare anche Giulio. Ma Giulio a casa mia ci è venuto, io l'arredamento che ho è tutto di Ferroni, ho comprato tutto da Ferroni ad Alghero perché erano amici di famiglia, ok? E allora quando mi sono sposato Giulio l'ha visto, li ha visti i miei mobili di cui uno mi ha fatto lo sportello eccetera, sono mobili che non ti dico quanto mi sono costati quando mi sono sposato, capito? Vai giù. Ok, ma solo, io dico solo il tempo ci darà conferma di quanto può andare avanti in questa maniera questo negozio, perché ripeto, una volta che si esaurisce tutta la fornitura un po' dappertutto, come stanno facendo magari in quasi tutta la Sardegna questa gente, ma dobbiamo considerare che un mobile non è un pantalone, non è una maglietta che te ne compri una ogni qualche mese così, o un pantalone ogni qualche mese. Il mobile, quando ti dura, per quanto possa essere scadente, sempre anni passano prima di cambiarli. Sarà, ripeto, il tempo che darà conferma di quanto questo negozio possa andare avanti in questa maniera. Io qualche dubbio ce l'avrei. Io comunque vi auguro buona fortuna a loro, perché sono venuti qua, hanno aperto un'attività e sicuramente qualche santo ci sarà lì lavorando. È buon perché ha avuto il lavoro, però saremo a vedere. Dai, solo il tempo ci potrà fornire la verità su tutto questo. Avanti, Antonè. Sì, poi giustamente facciamo girare gli altri. Ma guarda Giulio, bisogna tenere presente anche una cosa molto importante. Purtroppo stiamo vivendo un periodo di crisi e le persone quel poco che hanno preferiscono prendersi un mobiletto a due soldi, e dunque devi contare anche quello, sai, ho due citi, vabbè, mi serve un tavolo, io lo pago 50 euro, me lo compro invece di spenderne 300, perché funziona così. Poi bisogna contare anche un'altra cosa, oltre alla crisi, che adesso, come qualsiasi oggetto, sono usa e getta, hanno una scadenza, alla fine anche i mobili hanno una scadenza. Perché ho sentito molte persone, hanno fatto questo ragionamento, io con 2.500 euro mi arredo un appartamento, poi dopo 3 anni i mobili non servono più, perché purtroppo sono quello che sono, cosa faccio? Con altri 2.500 euro mi riarredo la casa e uno stile diverso, dunque tra una cosa e l'altra è sempre un cambio in casa alla fine, c'è anche quello da contare, perché sta funzionando anche così, il ricambio, dopo un tot e chi se ne frega, me lo butto, me ne prendo un altro con un diverso colore, me l'avvello in un modo diverso la casa, no? Con due soldi. E purtroppo sta funzionando anche questa mentalità. Prima sì, compravi un mobile per tutta la vita, adesso no. Adesso quando ti fanno la lavatrice, un anno e mezzo ce la butti, non ne vale la pena aggiustarla. Se con 150 euro te ne compri un'altra con 2 anni di garanzia, e altrettanto così sono i mobili. Bisogna contare anche quello, anche avere questa visione, ecco. E lasciamo perdere il discorso garanzia, perché tanto la garanzia uno non usufruisce mai, può usufruire su uno scaldabagno, ma non di più, perché di solito la garanzia nessuno riesce a usufruirne, eccetto qualche articolo così che vendono, ma sui mobili proprio no, guarda, non pensare alla garanzia, Antonio, loro se la promettono una garanzia solo per un fatto commerciale, solo perché devono vendere, basta. Però ripeto, un mobile, per quanto male possa essere stato costruito e per quanto possa essere anche scadente come materiale, ti dura sempre anni, se tu te lo sai tenere, ti dura sempre anni. Per cui non è così semplice, perché uno se ce l'ha già il comò o il tavolo, non è che lo compra domani, domani si può comprare un pantalone o una giacca o un giubbotto di un anno in anno, perché magari è uscito il tipo del giubbotto nuovo, un'altra moda, lo cambio, un pantalone nuovo, ma il letto non è quello che ti rimane per anni, e il discorso è questo, è una volta detto che loro hanno rifornito tutta la Sardegna di questi mobili. Non sarà sempre così, questa grande vendita c'è adesso perché hanno appena iniziato e dunque tutti quanti, sai, è come la mostra al miele, tutti vogliono vedere e vogliono comprare, ma non sarà sempre così, Antonio, io ho appreso in questo modo. Comunque ripeto, sarà il tempo a darci ragione o torto di quello che stiamo dicendo. Avanti Gianni, ma Marco ancora c'è? Sì, penso di sì, ma io non l'ho preso così, Giulio, perché con l'andare del tempo si sposerà altra gente, dovrà arrivare altre case, faranno, se Dio vuole, faranno altri villaggi e via dicendo, le cose andranno progressivamente, secondo me. No, non sono così pessimista. Scusa un attimo, Giulio, faccio un esempio. Allora, io ho lavorato 2 mesi lì per Conforama, 2 mesi per Conforama, a giornate, e loro vendevano tantissimo dei letti contenitori matrimoniali. Se nell'arco del mese ne vendevano 200, 120 ritornavano in negozio perché si rompevano giù. Tu devi vedere, si rompeva sempre la rete matrimoniale. Tu devi vedere com'è fatta questa rete matrimoniale. C'era un contenitore, no, per la differenziata giù a Conforama, era completamente piena di reti tutte rotte, perché i clienti poi bisognava ricambiare, perché guarda, anche in giro di un mese, anche in giro di 2 giorni ho dovuto ricambiare un letto perché si frantumano, la rete matrimoniale si frantuma, si può immaginare tutto il resto. Dunque attenzione, anche giustamente l'hai pagato poco, hai pagato quello che vale, però ripeto, quei letti matrimoniali da 200, 120, 125 venivano risostituiti perché in giro di un mese, 5 giorni, una settimana, ci scendevi giù, vedi un po' giù, e questa è solo una rete matrimoniale, ti puoi immaginare poi tutto il resto. Se fosse capito per qualche coppia giovane che sta sempre usato le lei. Cosa succede? No, aspetta un attimo. Ma questo è a favore di quello che sto dicendo io, o Antonio, perché se loro si sostituivano in quella maniera sostitutiva, in garanzia, è anche quello un consumo per loro. Per cui non lo so, e poi c'è anche da dire questo, la gente una volta che si rende conto di quello che compra, non è poi tanto semplice andare a ricomprare lo stesso materiale. Casomai se ne compra 1 milione, e per comprare 1 milione non va certamente dal mondo convenienza, bensì va da un negozio come si deve. E io l'ho preso così, non lo so, comunque saremo a vedere, lasciamo passare il tempo, poi si vedrà se continua ad essere così forte come in questo momento. Ah no, ma io condivido la parte che stai dicendo tu, però sai, a volte ci devi essere in mezzo a queste cose, per se le vedi è tutta un'altra cosa, dirle un conto, vederle un'altra. Se proprio bisogna vederle, guarda, ci devi vivere. Io l'ho vissuta e ho visto purtroppo queste cose, vanno anche così. Tutto lì, specialmente Marco Condor, che chissà quanto ce ne cambia lui di reti al giorno, vero Marco? Marco Vibrata che trovo. Marco questo la sta plantando, per cui non lo disturbate. Dai, vi assenta un attimo, riprendi qua, vi assenta un attimino. No, io se si tratta di mobili, i miei mobili ci hanno una vita e sono tutti mobili ancora nuovi. Io tutto mobile Girgi, Antonio, tu che sei pratico, i miei mobili sono tutti della mobile Girgi, il salone tutto, camera da letto uguale, e l'arredamento del bagno è tutto Cesano, già ce n'è problema. Ho cambiato il salotto, i 2 divani nuovi ho comprato, o quelli vecchi che poi non erano così vecchi, ce li ho sui massarra perché mi servono per la casa, e praticamente li ho presi lì da Veneti, come si chiama? Da Veneti, adesso mi ricordo, vabbè, comunque a Predanieta. Lì forse lo sai chi so, mentre quelli che avevo prima erano del divano e divano, capito? Ed è come hai detto tu, cioè non si può comprare non si può comprare roba scadente per poi farti anche male. Quei mobili, quel letto che hai detto tu, sì, c'è la rete appunto sopra il cassone, così detto, che tu quando apri, no? È chiaro che se non è un basamento fatto a regola d'arte, ma bensì di trucciolare e le due staffette di legno, si viaggi dentro, capito? Vabbè, riprendi già. Sono tablato. Ehi. Sì, è così. Io ho sempre sentito da mia madre, chi poco paga meno ha, sempre quella frase lì mi ricordo, cioè se tu paghi poco hai poco, è difficile che tu con poco prendi roba buona, è molto difficile, quindi no, io per i mobili ho proprio un'altra idea, i mobili devono durare, se compri una pentrucciola ti sei trattato il tuo canto, le cerniere sono le prime che partono, ancora adesso ci fa sapere, partono si frateggiano, a furia di chiudere e aprire si stracciano. E sono già scadenti i mobili dei negozi, come si deve, figurati un po' quelli. E boh, la gente per me è un po' stupida, io capisco che c'è gente molto povera e va a comprare quel genere di mobili lì, momentaneamente col pensiero di magari adesso compro questi, mi disimpegno e poi magari me li compro i due. Però il discorso è sempre quello, i mobili sono un oggetto del vestiario, sono i mobili, devono durare, per quanto poco durano, sempre passano anni. Ecco il discorso, io batto sempre su questo discorso, questi fra un po' di anni avranno lo stesso smesso di mobili come ce l'hanno oggi in questo momento, questo che bisogna aspettare, capito? E questo è stato il boom sicuramente, hanno fatto molta pubblicità, ci hanno saputo fare, ci hanno saputo attirare la clientela, questo è stato il boom, Giulio, ma dico sempre, ci sarà la gente che si sposa, che si deve andare a casa, ci saranno altri imprenditori che faranno, che costruiranno dei villaggi, delle case, eccetera, eccetera, quindi ma non sarà come adesso, ma penso che la cosa possa andare avanti se i preti tengono. No, guarda, Gianni, io invece ho un'altra idea, secondo me, i giovani vogliono cosa come si deve, che domani quei mobili lì li possono comprare i pensionati, quelli che hanno una pensione misera, per arrangiarsi e vanno avanti in quella maniera, con dei mobili così. Che hanno solo di mobili, hanno solo il nome mobile, poi in realtà non sono mobili, sono delle cassette, nello senso della parola, con materiale scadentissimo, anche marcio più delle volte, perché io l'ho visto i pannelli, io seguo sempre su 52, canale 52, e lì ci fanno vedere tante cose delle industrie del mondo e vedo come ricostruiscono e poi non so che tipo di materiali utilizzano, anche se sono di trucciolare di prima scelta non ce n'è nemmeno l'ombra, sono esattamente degli impasti di immondezza, proprio nello stesso la parola, rivestiti con della carta, è una carta leggera che te lo fanno passare per mobile pregiato oppure te lo fanno passare per mobile laccato, ma in realtà non è così, capito? Già, il discorso è questo, primo sei tu che non compri l'immondezza, come non le compro io, come non le compra Claudia, come non le compra nessuno, tantissima gente fa così, e la cosa buona piace a tutti, però ci sono quei poveretti che possono, ma quante di queste persone continuano a comprare sempre immondezza? Ecco, l'alternativa è questo, vai qua. Ma infatti tu già hai avuto modo di vedere i miei, quello che hai restaurato, quello sportello, quello c'ha una vita, capito? Perché erano dei miei suoceri, quindi i mobili sono gli unici che ho ottenuto perché sono buoni, capito? Li aveva comprati da Guido Garau, perciò ha ragione Gianni, hai ragione tu, Antonello ugualmente, cioè il discorso è molto semplice, se vuoi che i mobili ti durino devi spendere, devi comprare cosa buona. Se poi non hai la possibilità, che allora devi purtroppo cambiare e arredare, sei costretto ad andare a comprare roba che ti dura 2-3 anni e poi devi nuovamente cambiare. però è così, assolutamente. Io anche, anche adesso il nuovo arredamento è tutto sempre lì della, di Ferroni e Alghero, non c'è niente da fare, perché sono mobili che a me mi sono durati 30 anni, ce li ho ancora e mi sembra che in 30 anni avevo cambiato due cerniere, capito? Tutto lì. Va bene, dai, io mi sto preparando, vi sto ascoltando, ma mi sto preparando per portare il cane. Il cambio per Marco, se c'è, se no riprendi tu Antonio. Che ore sono qua? Le 7:20. Certo, roba. È già tardino anche per me. E vabbè, comunque, ognuno la vede a modo suo. Diciamo che ognuno deve guardare le sue tasche e farsi un conto prima di fare queste spese qua, perché sono spese grosse, non è che siano noccioline. Io vi ricordo che la cameretta dei ragazzi l'ho pagata una barca di soldi, perché era la carta del ciliegio, non è nemmeno ciliegio proprio, sicuramente sarà, ci avrà pannelli intrucciolari, ci avrà, non è proprio ciliegio, però è la carta del ciliegio. È una carta, è un adesivo che è talmente preciso al legno che la gente rimane ingannata per quel motivo lì. Ma uno del mestiere come me, queste cose non me le puoi far passare, ecco qual è il discorso. Sì, ovviamente trucciolare, sì, perché trucciolare, ti ricordi che quando ti erano caduti quei ripiani, eccetera, guarda se ti cadono adesso come ti ho messo io i ripiani, non ti cadranno mai più, il mobile si distruggerà, ma quei ripiani rimarranno sempre fissi, non cadranno mai più, non ti sembra che sia così? Beh, certo, e vabbè, quelli perché fanno le, si perdono nelle cose, proprio le fesserie, le rifiniture, queste cose qua si perdono. Però il mobile di per sé è un bel mobile, caspita, l'ho pagato un bel po' di soldi per quel mobile. Oh giù, la mamma è ammentata una cosa, non è giunto uno, no, che mi ha detto, oh, che belli questa scrivania L da ufficio, dove l'hai comprata? A Conferrama. Guarda, già male come farebbe tu con la vacone. Ma pagare dai, ma non è possibile, dai. Sì, Gianni, indubbiamente come figura sono belli, perché sono disegni fatti da grandi disegnatori, da architetti, eccetera, indubbiamente come disegni sono belli, però è il contenuto che non c'è. Il discorso è questo, tu vai a comprarti, per dire, non so, una cucina, te ne cade lo sportello sui piedi, perché? Perché magari ci sono le cerniere che non sono quelle buone, anche se sono cerniere a scatto, dovrebbero essere quelle buone, o anziché se prendi da 35 sono da 25 e dunque hanno nemmeno la metà della forza per sostenere lo sportello, o perlomeno anziché essere quelli d'acciaio sono di quelli da lanierino, che le apre quattro volte, come si contorce la cosa, basta che sia un pochino o messa in maniera un po' anomala la cerniera, che si rompe in poco tempo. Cioè, ci sono tanti particolari che giustamente tutto questo a loro, facendo tutti questi risparmi, le consente di guadagnare, di vendere a poco prezzo, è ovvio. Se facessero il lavoro fatto come si deve, sei tranquillo che non lo venderebbero a quel prezzo, indubbiamente questo no. E allora sarà tutto un altro discorso. Però, ripeto, è la gente che deve essere intelligente, capire e vedere quello che sta comprando, perché chi compra a poco prezzo spende sempre di più, perché è costretto poi a ritornarci nelle spese che ha fatto, capito? Avanti io, Antonio. Comunque sembra una barzelletta, un mobile che hai fatto tu, un falegname, a passarlo per mobile di Conforama è proprio un affronto, Te lo sto dicendo, ha detto, ma tu c'è Gugeo? Ma tu non lo sai, perché l'ho visto così questi piani. Allora, guarda, inchinati sotto. Quando l'ha visto sotto, mi ha detto, non è possibile. Questi sono fatti, questa è fatta a mano i piani. Chi ti ha fatto? Da un vero Macrolascia, non ti dico che è. Ok, anche la giuntura, aspetta. Allora, come sta la ciambairea? Ti ha detto, ero convinto che erano delle basi di tavolo accoppiate. No, questi sono fatti, è fatta a mano, da 1 a 1 è finito così come lo vedi. Dice, i piedi sono comprati lo stesso dal falegname, adattati e messi. Quando poi ha visto la cerniera o giù, dove è montato sto coso? È montato su una controbase tassellata a muro e messa le cerniere, perché se io devo usare questa stanza per fare dei lavori non faccio altro che togliere il radio, abbassare e il tavolo va giù come tranquillo, i piedi si piegano, è rimasta bocca a becca. Devi considerare questo particolare, quei piani lì col banco tuo erano esattamente dei ripiani che io avevo fatto per una libreria, poi purtroppo il cliente non l'ha potuto più ritirare e allora mi sono rimasti a me. Intanto sono in noce Daniela, prima di tutto, stambulate il legno, lavoro questo olio con legno, stambulate il legno, poi siccome erano larghi 30 cm di larghezza, perché era una scrivania che andava messa in un ambito e dunque bisognava avere la comodità di avere la scrivania, allo stesso tempo di non stringere troppo l'ambito, perché se no c'era poco spazio per poi passare, no? Se no di solito vuole 35 la scrivania, la profondità, per dire. Però a parte questo discorso, allora che cosa è successo? È successo che purtroppo questo è morto e non l'ho potuto ritirare alla fine, la famiglia non ha voluto più sapere, pazienza, ed è rimasto a me il materiale, no? Vabbè, io li ho incollati quelli, li ho uniti qua, ma sembrano tutti interi, non è tutto il piano, tutto il foglio intero che ho messo, ben ci sono dei ripiani larghi 30 cm che io ho lavorato, li ho squadrati e li ho incollati. E tu a chiunque li puoi far vedere, nessuno ti può dire che quello sia un lavoro aggiunto, per così dire, cioè un lavoro di pezzi aggiunti, no, sembra completamente il foglio steso, largo tutta la larghezza della profondità del banco, che sono 60 cm, più lo spessore davanti, quel montante che c'è davanti, che è grosso, eccetera, quello sempre per il rinforzo che non piegati, eccetera. Per dirti, no, erano pezzi già lavorati, figurati un po' se li dovessi fare dall'inizio, la differenza ci sarebbe forse minima, però c'è, capito qua? No, ma io non ho assolutamente dubbi, perché per me è questo ragazzo che è rimasto perplesso, no? Che a lui le sembravano, capito, delle basi comprate, no, queste sono fatte dal falegname, perché sono talmente lisce, figurati che la vernice, no, il coso è sempre uguale come il giorno come l'altro, tu sei da tanto che non ci vieni. No, ma secondo lui avevo comprato le basi dal Conferrano, ha detto vai, coccati, vai, guarda come ha fatto queste, come sono fatte queste due basi accoppiate, fatte a L. L'ho detto, ne manca un altro pezzo che non ho mai fatto, perché materiale ne era rimasto poco e poi non ho, mi chiudo troppo e quindi l'ho lasciata qui, se no questa era una U, era, capito? Vabbè, è così Antonè, non venuto dall'avanti, la gente è pure ignorante soprattutto, capito? Vado a portare il cane, dai, se ci siete salgo subito, a dopo. Ok, sì, ma hai detto bene, ma gente, è proprio ignorante. Io, tu non hai idea di quante persone venivano da me, e vanno a rifare questo, così e così, vabbè, te lo rifarlo. Però, mi richiedi, magari mi venivano a dire, mi piace la serratura di sicurezza nella porta d'ingresso, certo che te la piace. Quando andavi lì a vedere la porta, era uno schifo, una vergogna, costava più la serratura che la porta. Ma come fai tu a chiedermi di metterti una serratura di sicurezza in un portoncino d'ingresso, quando questo portoncino che passa un po' di vento te lo apre? O meglio te lo sfonda, perché se metti la serratura di sicurezza non te lo apre, però te lo sfonda. Ecco qual è la gente, pensava più al televisore da 3-4 milioni per dire, o 3.500 euro oggi per dire, che comprare un portoncino che magari cosa pagava 1.500.000 o 1.500 euro, 2.000 euro oggi per avere una certa sicurezza. Ecco il problema di ignoranza della gente, non so se mi sono spiegato, Gianni. Sì, più è così. Le cose che appaiono piacciono di più alla gente, le cose invece che necessitano se ne fregano un po', è vero, è così. Andare, dai, io vi saluto, che vado anch'io a prepararmi e vado a portare giù il taglio a fare una passeggiatina, se poi c'è troppo freddo. Ci sentiamo ragazzi, statemi bene, buona serata, grazie per il QSO, quello è più esecutivo per doppio. Ciao, dai, anch'io mi sento un attimino di nuovo. Ciao Gianni, caro Prussico, vengo subito qua. Scusate, sono un attimo al telefono. Fatto, ci siete? Ora, sto uscendo. Giulio. Gianni, ci sei? Attento Giulio. Attento di, non c'è. Giulio, ci sei? Non c'è più nessuno? Marco, ci sei ancora? C'è nessuno? Tutti andati via?